Ti dà fastidio? Tutt'altro. No, perché se poi ci fosse qualcuno che lo mette in belle lettere. No, noi lo trascriviamo tutto e poi puliamo gli audio e ti faccio vedere. Sì, certo. Allora. Andiamo a cominciare. Tolgo tutte le suonerie possibili. Dunque, io tanto siamo tutti tra persone conosciute, quindi la presentazione sarà molto breve, non è il caso di stare a fare, però per introdurre un po' soprattutto lo spirito con cui è nato questo seminario. Stamattina, come tutti sapete, è un seminario relativamente interno che abbiamo voluto fare proprio per dedicarlo a noi, e abbiamo chiesto ad Adriano Voltolin di farci ripercorrere in una mattinata la storia della psicanalisi. Perché questo? Perché da alcuni mesi sta nascendo questo rapporto tra il nostro laboratorio, Aldo, Adriano, insomma Franco Romanò, una serie di incontri e chiacchierate, per cercare di dare il via ad un percorso di studio sul rapporto fra storia e psicanalisi. È un rapporto, per ora mi permetto di dire, embrionale, nel senso che è stato manifestato un interesse reciproco. Ci siamo incamminati appunto nella ricerca di quelli che possono essere i punti di incontro fra queste due materie. Perché questo? Perché, proprio nelle chiacchierate che abbiamo avuto modo di fare, da parte degli storici è emersa chiaramente l'opportunità e l'esigenza di approfondire lo studio del Novecento anche da un punto di anche per, attraverso gli strumenti che la psicanalisi mette a disposizione, sia per quanto riguarda lo studio di singoli e il comportamento di singoli personaggi, ma questo magari sarà argomento di seminari futuri, sia guardando la prospettiva di come nel Novecento si siano verificati veri e propri passaggi. Adesso io probabilmente mi esprimerò anche con termini non troppo precisi, ma cerco di introdurre, si sia verificato un vero e proprio passaggio dall'io al noi, attraverso quelli che sono stati per esempio i movimenti sociali, i movimenti politici, i partiti di massa e così via. Questione che appunto non può vedere gli storici indifferenti, che deve, alla luce delle riflessioni che abbiamo fatto, e ovviamente come sempre per merito di Aldo, che su questo è sempre la nostra punto di riferimento, una guida fondamentale, proprio per cercare di approfondire il Novecento anche da questo punto di vista, per entrare sempre di più e sempre meglio nei meandri di questo secolo così complesso che ha stravolto completamente tutta una serie di paradigmi. Ecco perché lo spirito del seminario di stamattina, perché a noi, il laboratorio di studenti, manca completamente o lo studio della psicanalisi, delle sue correnti, della sua storia e via dicendo. L'abbiamo fatta sicuramente in maniera molto veloce per quanto riguarda le scuole superiori, ma sfido chiunque di noi a dire che si ricorda o comunque che ha una conoscenza approfondita e completa in materia. E quindi, per approcciarci, per arrivare a poter sostenere seminari più complessi rispetto a quello che ho detto, abbiamo chiesto ad Adriano Voltolin di dedicarci una mattinata in cui appunto introdurci a quella che è la storia della psicanalisi, dei suoi correnti, i concetti fondamentali e così via. Quindi questo un po' per introdurre appunto lo spirito con cui siamo qui stamattina. Io ringrazio anche tutti i membri della Società di Psicanalisi Critica che sono qui perché per l'interesse e per la partecipazione, e lascerei subito la parola ad Adriano ringraziandolo e, insomma, buona mattinata. Grazie. Fare un'introduzione alla psicanalisi oggi con riferimento alla sua storia e pensando a un pubblico di storici, come capite bene, non è una robetta da niente. Io ho scelto questo taglio, che spero possa risultare utile, di seguire un pochettino le trasformazioni del concetto di inconscio, perché attraverso le trasformazioni di questo concetto, ecco, si può venire uno a una, credo, migliore comprensione di cosa sia la psicoanalisi contemporanea, Due, a mostrare come la psicoanalisi non sia riconducibile per più ragioni, e spero di riuscire ad affrontare anche questa questione, alla sua attività clinica. Freud stesso nel 1926, quando scrive un'opera che è trascurata e non a caso oggi, ma è un lavoro molto importante, che è tradotto in italiano sull'analisi dei non medici, cioè fatta da non medici. Il titolo originale è Laienanalyse, l'analisi laica. Freud dice espressamente: io mi auguro che la psicoanalisi non diventi una cura, esclusivamente una cura. Dice, l'impiego terapeutico della psicoanalisi è uno degli impieghi. Io spero che non diventi neanche il maggiore, e tantomeno che la psicoanalisi diventi un capitolo nel manuale di psichiatria. Flash sulla contemporaneità. La società di psicoanalisi italiana oggi, la società psicoanalitica italiana, la quale peraltro io ho fatto la mia formazione, è composta praticamente tutta da medici. E credo, adesso non ricordo bene, forse Marina Ricci è la più presente di me, lo statuto della società di psicoanalisi riserva alcuni posti a non medici, pochi, pochi, molto pochi. Le intersezioni tra la psicoanalisi della società psicanalitica odierna, italiana odierna, e le neuroscienze sono molte ed abbondanti e per lo più di scarsa suggestione. Hanno pubblicato anche qualche cosa. Sempre per dare delle dimensioni, nella scuola lacaniana di psicoanalisi, che è un'importantissima scuola a livello mondiale, oramai fa tanti aderenti come l'IPA, i medici sono una minoranza. Nella nostra, per carità, piccolissima società di psicoanalisi critica, non ci sono medici, ci sono analisti, ma non medici. Quindi l'idea che la psicoanalisi interessi solamente chi vuole curarsi è un'idea profondamente non freudiana. Primo punto. Veniamo all'inconscio. Ecco, qui io credo si possa pensare un po' alla psicoanalisi, il lavoro di Freud. Con rispetto alla questione dell'inconscio, due date fondamentali. Uno è il 1900, anno in cui viene pubblicato l'interpretazione dei sogni, e uno è il 1920, l'anno in cui viene pubblicato Al di là del principio del piacere. Nell'interpretazione dei sogni e in tutta la fase, diciamo questa, la chiamo prima fase, sarebbe giusto. L'inconscio è qualche cosa, Freud dice un calderone di istinti ribollenti, che viene tenuto in qualche modo a freno dal superio, che è l'istanza morale, insomma, per intenderci, quella che viene, da un punto di vista sociale, si può pensare come il sistema ideologico dominante che pone certe limitazioni all'espressione dei moti interni. E poi c'è l'io che coincide con la coscienza, si può dire tout court, che coincide con la coscienza. L'io è la parte della personalità che è deputata ai rapporti con l'esterno. La cosa importantissima, naturalmente, è che con Freud finisce un'idea unitaria di soggetto, ecco, l'idea illuministica. E pre-freudiana, Freud è un punto, è uno spartiacque. Sì, c'era stato Schopenhauer, per esempio, ecco. Ma l'idea che il soggetto non sia unitario con Freud e con questa, strutturazione della mente, del mondo interno, cessa di esistere. E in questo momento però l'inconscio si presenta come qualche cosa da decifrare, qualche cosa che viene tenuto a freno, qualcosa passa nel conscio. Io quando faccio la lezione introduttiva al mio seminario in università dico agli studenti, cioè, potete immaginarsi un po' un modello delle dighe, delle centrali idrauliche. C'è un invaso a monte, una diga che trattiene, qualcosa può andare al di là, a qualche cosa viene concesso di andare al di là, ma in maniera controllata, o se non è controllata è episodica, casuale, intermittente, frammentaria, eccetera. Per dirlo con le parole di un analista lacaniano molto importante, che è Jacqueline Miller, in questo momento il lavoro analitico è un puro lavoro significante, un metodo di decifrazione dell'inconscio, un metodo di interpretazione. Qui il rapporto tra psicopatologia individuale e società appare un rapporto diretto. C'è l'organizzazione sociale che ha certe regole, queste regole impongono il trattenimento di alcune pulsioni, diciamo di quel che viene da dentro. In questo momento non è ancora coniato il termine pulsione, qualche cosa può passare. E come si attua un metodo di decifrazione? Freud dice c'è una via regia per interpretare l'inconscio, che sono i sogni, e ci sono altre vie, una è il motto di spirito e l'altra è l'atto mancato, l'apsus, e così via. E per ciascuno di questi tre elementi ci sono tre lavori fondamentali: uno è l'interpretazione dei sogni, appunto, l'altro è psicopatologia della vita quotidiana, atti mancati, lapsus, errori casuali, eccetera. Il terzo lavoro è l'inconscio e la sua, il motto di spirito e la sua relazione con l'inconscio, che sono prodotti nel giro di pochi anni. E del 1900 il liberatore dei sogni, del 1905 è il motto di spirito, la psicopatologia della vita quotidiana, non mi ricordo bene di che anno è, Giuseppe, De Cattolici, sì, ma roba, insomma nel giro di pochi anni. Cioè c'è un'idea intrinseca di società, direi di tipo abbastanza reazionario. La società in termini generici è una dura realtà della vita che costringe a dei sacrifici, punto. In quest'idea di inconscio, tenete presente, Freud nasce nel 1856, quindi nel 1944, è un uomo sostanzialmente ottocentesco. Freud userà sempre malvolentieri proprio il telefono, quando anche lui avrà in casa sua il telefono. È impacciato. Io sono riuscito a sentire un'intervista a Freud quando è arrivato nel 38 in Inghilterra, e dice con un disagio evidente: sono il professor Freud. Ma, cioè, è un uomo dell'Ottocento, insomma. Nell'Ottocento la questione della sessualità è una questione fortemente inibita, soprattutto nelle donne. Certamente l'impulso sessuale, poi lo vediamo, è una parte importante della struttura mentale. Il conflitto è tra l'io e la pulsione sessuale. Se voi leggete i casi di Freud, c'è questa, tanto che qualcuno poi ha parlato un po' stupidamente di pansessualismo della psicanalisi. Cioè Palmiro Togliatti pensava che la psicanalisi è quella roba, lì di camere da letto, sono cose che non stanno tanto bene, ecco, figurarsi col movimento operaio che è così. Quindi un conflitto tra l'io da una parte e qualche cosa che dall'altra parte verrà definito pulsione solo nel 1905 nei tre saggi sulla teoria sessuale. E qui, piccolo inciso, la pulsione traduce in italiano il termine tedesco trib, Gli inglesi l'hanno tradotto, ho comprato quel libro stamattina di un analista inglese e che usa ancora instinct. Instinct venne usato nella traduzione britannica curata da James Strachey, tuttora famosissima, la standard edition delle opere di Freud, ed è una traduzione molto impropria, tanto che oggi la letteratura inglese preferisce, o molti analisti inglesi preferiscono il termine drive. Perché è impropria? Mentre io trovo che l'italiano pulsione o il francese pulsion siano assolutamente indicati. Perché Freud dice la pulsione è qualche cosa al confine tra il somatico e lo psichico, che è parte del somatico e parte dello psichico. Quindi non è un istinto. L'istinto non è simbolizzabile, l'istinto è il modello ripetitivo attraverso il quale gli animali hanno i loro comportamenti. Non è del resto nemmeno totalmente mentale, cioè ha una parte di base organica. L'esempio che fa Freud, ne fa due, in realtà. Uno è la fame e due l'impulso sessuale. Credo che siano indicatissime queste due cose per indicare cos'è una pulsione, quindi un trib. Qualcuno forse avrà letto un piccolo racconto di uno scrittore norvegese che è stato anche premio Nobel per la letteratura, che è Knut Hamsun, e questo piccolo racconto si chiama proprio Fame. Ed è meraviglioso perché il protagonista è sempre spinto da questa fame che non ha solo radice nel fatto che è povero, che non può comprarsi a mangiare, che è giovane, che vive in un paese freddo, ma la fame è inarrestabile. E su questa questione della fame torneremo. Quindi in questo periodo l'inconscio è qualche cosa che sta dentro il soggetto nel mondo interno, viene tenuto a freno da un'altra istanza psicologica che è il superio e che lascia passare qualche cosa nell'io. Il lavoro psicoanalitico sarà un lavoro di decifrazione. La decifrazione dei sintomi dovrebbe portare il paziente a accettare di più la propria parte inconscia, quindi avere meno conflitti e quindi sostanzialmente a vivere meglio nella propria società. Con tutto quello che questo vuol dire di non banale, perché non si tratta di una pura ortopedia, ma accettare l'impulso sessuale come qualcosa di rappresentabile, di parlabile, la psicoanalisi è una talking cure, è una cura della parola, cioè corrono parole in analisi, non corrono farmaci, non corre altro. Quindi questa funzione di decifrazione ha dei risvolti importanti, però si chiude lì. Tu mi porti dei sintomi, io li interpreto, tu dovresti stare meglio, stai meglio con te stesso e con gli altri, hai meno conflitti, grazie tante, eccetera. Le analisi a quel tempo duravano 6 mesi. 6 mesi quando erano piuttosto lunghine, duravano anche un po' meno, anche 3 mesi. Freud peraltro analizzava a 5 sedute alla settimana, quindi tutti i giorni, un'ora al giorno. Ieri sera io guardo appassionatamente sempre la storia, così qualche volta vedo il mio amico Giannoli. Ieri sera c'era un film, io non l'avevo mai visto, è Dino Risi, era Caro Papà. Ecco, mi viene in mente, perché stamattina sarei venuto qui, perché una visione così sovranamente imbecille della psicoanalisi e credo anche della storia, ahimè, in un autore come Dino Risi, l'autore del Sorpasso, insomma, ma nel 79 non era più il Dino Risi del Sorpasso, in cui c'è un analista grottesco a cui la scema di turno in una festa borghese dice: ma lei professore, come interpreterebbe i rivoluzionari, diciamo, fine degli anni 70, gli estremisti, eccetera. Dico, ma io penso, devo fumare la pipa dai capelli come un matto che sembra ancora di altro, ma io penso che in realtà, cioè, problemi primari con la mamma, con la mamma, tu lo scemo di turno, vabbè, finisce lì. Questa è la funzione della psicanalisi. Ma mi veniva da notare anche che e pensavo, oltre a me, per le questioni psicanalitiche, al mio amico Giannulli, per le questioni storiche, il 68 e gli anni 70, un conflitto generazionale. Ci sono dei giovani un pochettino così sbalestrateri, a un certo punto il figlio del protagonista, che ha fatto la resistenza, ma è un uomo di grande successo, pieno di denaro, eccetera, gli dice: basta con questi partigiani, hai rotto i coglioni con questi partigiani, eccetera, la guerra resistenza, basta, insomma, siete oramai, siete come il risorgimento. Ecco. Lettura sballata della psicanalisi da parte di Norisi, ma credo lettura ancora più sballata della storia del 68. Quindi una lettura dell'inconscio in quel tempo fatta in questa maniera porta di necessità a una considerazione della psicoanalisi di questo tipo e un rapporto con la società che appare da un lato reazionario, dall'altro lato inesistente. Cioè, io curo uno, come frega, insomma, che abbia un tumore, una gastrite o una nevrosi, non cambia poi molto il problema. Nel 20, cioè, Freud pubblica questo libricino, sono 60 pagine, che al di là del principio del piacere, notando questo, che i pazienti, cioè, ma tutti, tendono a ripetere nella relazione analitica la relazione che hanno o hanno avuto con le figure di riferimento, le figure primarie, padre e madre, e quelle che sono le rappresentazioni di padre e madre, il professore, il maestro, la moglie, il marito, eccetera. Quindi lui dice: c'è una tendenza alla ripetizione, ma è una tendenza forte. È una coazione, anche qui felicissima traduzione italiana del termine Zwang, è tradotto con coazione, cioè la ripetizione non è qualche cosa che viene attuata coscientemente, la ripetizione è inconscia, cioè la ripetizione è obbligata, la ripetizione è un macchinismo industriale, per dirla coi termini del tempo. E Freud dice: si può, dice, pensare a quel tempo, quindi nel concetto di inconscio che vi ho illustrato prima, di pulsione ce n'è una, che è quella libidica, cioè l'investimento libidico sul cibo, sul sesso, cioè sull'oggetto sessuale, eccetera. Lui dice: si può ipotizzare l'esistenza, cioè si può pensare a un'ipotetica pulsione, dice Angenomenen Trieb, che porti costantemente a farsi allo stato di inerzia che precede l'attività. La soddisfazione produce lo spegnimento della pulsione. Quindi lui cita questo modo di dire francese: la soddisfazione dopo l'accoppiamento sessuale, indicata come la petite mort, la piccola morte, o la soddisfazione dell'aver mangiato, lo spegnimento. E dice: potremmo pensare che ci sia una pulsione che fa sì che tutto quel che è vivo viene portato a morte, viene portato a spegnersi. E lui dice: in realtà lo stato di morte, quindi di non vita, è uno stato che precede la vita. La vita è una specie di battito che segna una sospensione dello stato di morte a cui si ritorna. E sarà questa, appunto, poi quando gli darà un nome più preciso, non sarà più una pulsione ipotetica, ma sarà la pulsione di morte, il Todestrieb. Cioè, l'inconscio qui è qualche cosa che tende a ripristinare le condizioni dove c'è assenza di tensione e non più il calderone di istinti ribollenti. C'è una maggior potenza della morte sulla vita, e questa cosa si manifesta in modo coatto. Questo lavoro e l'ipotizzare l'esistenza di una seconda pulsione che si oppone alla pulsione di vita è un passo fondamentale nella clinica e nella cultura e nella strutturazione della teoria psicoanalitica. Intanto, se prima l'attività analitica era un'attività di decifrazione, adesso si può sviluppare di più attraverso l'analisi del rapporto che si viene a costituire tra l'analista e il paziente. Perché? Perché se c'è una tendenza a ripetere dentro la relazione analitica quello che è avvenuto tra il paziente e le sue figure di riferimento, l'analisi della relazione analitica è l'analisi per eccellenza, ma non è più una decifrazione. Appare qualche cosa che mette pian pianino a nudo gli aspetti, lo dico in modo grossolano così, gli aspetti di responsabilità del paziente. Cioè, se c'è una tendenza a far morire, una tendenza a spegnere, secondo portato dell'esistenza della pulsione di morte, il male non è più esterno. Nella concezione della psicoanalisi come decifrazione, il male in definitiva è sempre esterno. C'è una vita interna che non può esplicitarsi in tutta la sua pienezza, se no ognuno di noi mangerebbe tutto, ogni uomo possiederebbe tutte le donne, ogni donna sarebbe attorniata da 100 e 100 pretendenti, di questo genere. Questo non può svilupparsi, sarebbe un bene ipotetico che va tenuto a freno, ma il soggetto può solo adattarsi a questa situazione accettando quel poco che si può accettare. E qui le cose cambiano radicalmente. Il male è dentro il soggetto, il male è dentro, e si tratta in qualche modo di lavorare attorno a questa questione. Si comincia a dire, o si dirà dopo, che non c'è analisi che funzioni se non è stata analizzata da parte della coppia analista-paziente l'aggressività del paziente, la distruttività del paziente rispetto all'analisi. Ancora, la tendenza, qui c'è un problema che ancora oggi ha qualche risvolto pratico. Freud parla di pulsione di morte, cioè tendenza a spegnere. La tendenza a spegnere può manifestarsi o attraverso l'aggressività, per esempio, certamente, voglio dire, l'aggressività degli aguzzini, dei lager nazisti, ma non solo dei lager nazisti, è proprio una tendenza ad aggredire, a spegnere l'altro, a uccidere, a far fuori, a far morire. Ma la pulsione di morte ha anche una funzione di limite, cioè non posso andare al di là di certe cose. Cioè, una cosa è l'aggressività, una cosa è lo spegnimento. Io penso, è una cosa che abbiamo sottolineato molte volte nei lavori di psicoanalisi critica, che in realtà, si veda il caso Berlusconi, è la pulsione orale, l'idea di avere, di mangiare tutto, che sia assolutamente distruttiva per la società, più che la pulsione di morte in sé. Comunque, le pulsioni vanno regolamentate. Con questo passaggio cambia alla radice il rapporto tra attività psicoanalitica e inconscio e società. Cioè, se prima la società era un dato con i suoi valori, eccetera, si trattava di decifrare da parte della coppia analista-paziente i conflitti al fine di ridurne la portata, e qui le cose cambiano radicalmente. L'opera è del Veno, perché la società, la condizione stessa della società, si basa sulla possibilità di regolare le pulsioni. Quindi non c'è una società a parte, un individuo che deve adattarsi, ma, come fa notare Freud in un'altra opera fondamentale, che è Il disagio della civiltà, che è del 29, lo sviluppo individuale e lo sviluppo sociale in qualche modo corrono paralleli o hanno uno sviluppo abbastanza simile. La società può erigersi solamente sulla regolazione pulsionale. Quindi l'intreccio tra società e soggetto è molto più ampio. Per dire, cito due analisti, uno italiano e l'altro inglese, questo amico italiano raccontava un giorno che, quando qualcuno diceva sì, ma voi, erano anni diversi, voi psicanalisti non vi occupate della società, e dice, io in genere dico, ma io il sociale, nel senso del socius, ce l'ho sul lettino, perché l'individuo a questo punto, con questa formulazione del concetto di inconscio, è un impasto pulsionale con delle regole. L'altra analista, che è un'analista inglese, scriveva, se in un'analisi non appare mai la questione sociale, per questione sociale intendo dire, non so, nell'analisi di oggi appare la crisi, i soldi, i licenziamenti, ieri ho fatto una intera seduta sull'articolo 18, questo genere. Se in un'analisi non compaiono mai queste cose, dice, c'è una gigantesca rimozione, e questo è evidente. Se io faccio un'intera analisi in cui parlo del problema della mamma, del nonno e dello zio, ma non compare mai il sociale, ho rimosso, la coppia è solidale nel rimuovere un aspetto assolutamente rilevante della vita di ciascuno di noi. Ciascuno di noi vive all'interno di una società con le sue regole belle, brutte, malfatte o ben fatte. Cambia a questo punto anche l'organizzazione dell'inconscio, nel senso che non è più rappresentabile, come indicavo prima, come una sorta di calderone o di invaso di acqua con qualcosa che la tiene, qualcosa che va a valle, qualcosa che esce, ma può essere controllato in parte non può essere controllato. È da notare che qui Freud usa, nel 27, in realtà, nell'Io e l'Es, fa proprio un disegno dove mostra che l'Io appare una piccola regione dell'Es. Cioè, in qualche modo, una sorta di parte delegata a trattare con l'esterno. Cioè, si presenta l'inconscio come una regione psichica dentro la quale confliggono una serie di spinte che devono essere elaborate nell'ordine simbolico. Che non possono essere totalmente assoggettate all'ordine simbolico. Cioè, l'individuo è mosso da un mondo interno che ha una potenza straordinaria. Potenza straordinaria, voi pensate al caso delle Twin Towers. Voi ricorderete tutti, come ricordo io, le immagini di questi che si buttano giù dal 200° piano per sfuggire alle fiamme. E se io mi butto dal 200° piano, anche dal 27° per sfuggire alle fiamme, cioè, evidentemente vado a morire, Dice, ma potrei morire più comodo senza sfracellarmi lì. Sì, ma il terrore, l'angoscia interna di morire dentro le fiamme è tale che preferisco buttarmi sicuramente a morire. Quindi c'è una parte, una regione che ha una forza straordinaria e un'altra regione psichica, che è quella dell'io, che in qualche modo deve tentare di mettere su un piano di coesistenza possibile gli aspetti interni con il mondo esterno. Anche qui prendo una definizione di Jacqueline Miller, per dire che a questo punto l'inconscio non è più appunto il carne distinto, ma è un sapere non saputo. È una bella immagine, no? Cioè che è qualche cosa, questo chi fa il nostro mestiere lo rileva regolarmente in ogni analisi, che più o meno inizia sempre con uno che arriva lì e dice: devo parlare io. Cioè, l'analista è quello che non sa niente, non può sapere le cose che l'altro sa, quindi è l'altro che sa, ma non sa di sapere, e deve portare qualche cosa, e poi l'analista ha una funzione un po' di organizzatore, no? Tanto che scuole analitiche francesi, mi riferisco a quella lacaniana, non chiamano il paziente paziente, ma lo chiamano giustamente, peraltro, analizzante, nel senso che è il paziente che fa l'analisi, l'analista sottolinea cose diverse. Stamattina, scherzando, la dottoressa Alice, che è qui davanti a me, segretaria della Società di Psicanalisi Critica, diceva: ah, si diceva che bella testa che io, dico anch'io, ti dicevo spesso che testa che hai. Cioè si cambia solamente la sottolineatura, no? Cioè l'analista ha un po' questa funzione, cambio le sottolineature. Il mio maestro Enzo Morpugo raccontava che durante una seduta una signora che aveva un gravissimo conflitto con la madre dice: sa, adesso mi trasferisco, vado ad abitare un tiro di schioppo da mia madre. E dice: io gli ho detto di schioppo? Cioè è proprio un cambio di sottolineature, voglio dire, che mostra degli aspetti saputi che non si sanno di sapere. Questione importante, sono tutte questioni importanti. La scuola che in Inghilterra prenderà le mosse da Melanie Klein era nata a Vienna, aveva compiuto la sua formazione analitica prima a Budapest e poi a Berlino, ed è la fondatrice di una tra le più importanti correnti psicoanalitiche contemporanee, che è la corrente kleiniana. Nei lavori della corrente kleiniana, lavori del 40 grosso modo, a Londra, c'è questa importante affermazione che riprendo dall'analista kleiniana, che la fantasy con la PH e l'inconscio nella scuola kleiniana, dice, è qualcosa che non può più essere opposto a reality. Perché ha lo stesso peso, le cose che riguardano il mondo interno hanno lo stesso peso della realtà, sono realtà. Tutti voi avrete sentito qualche medico con la tipica cultura medica dire: no, non ha niente, è un problema psicologico. Cioè uno si suicida, ma non ha niente, sta benone, è un problema psicologico. E non ha niente di organico. Però il peso delle fantasie o dei fantasmi interni è un peso non inferiore a quello che ha l'esterno, la realtà. E qui potremmo dire anche la storia, io credo. Scuola kleiniana, scuola lacaniana. Jacques Lacan dice: l'inconscio si struttura, dice, in tre registri diversi. Intanto per una lunga fase, anche lui a partire dal 1953, quando presenterà una relazione fondamentale a Roma, l'inconscio, dice, è strutturato come un linguaggio. Adesso lascerei perdere questa roba qui, che poi si potrebbe da dire, ma lui dice l'inconscio è strutturato su tre registri: il simbolico, il reale e l'immaginario. No, dice, c'è un registro simbolico che è il registro attraverso il quale l'inconscio organizza il pensiero inconscio, che diventa, per esempio, sogno. Ho sognato di andare per una via, ma non vedevo bene i nomi dei negozi. Ecco, per dire così. C'è un registro immaginario che è il registro, lo direi così, io non appartengo alla scuola kleiniana, lo dico al mio modo, è il registro dell'efflorescenza, insomma, cioè dove qualche cosa che ha un fondamento nel rapporto tra simbolico e reale acquisisce una serie. Quindi posso dire, posso raccontare chi era mio padre o chi era mia madre. Franco Fornario chiamava il mito personale, questo che in analisi va rivisto. L'ultimo registro lacaniano importantissimo è il reale. Il reale cos'è? È quello che cede la simbolizzazione. E qui, con questa idea del registro del reale, Lacan pone una questione molto importante, che l'inconscio tutto sommato simbolizza, cioè rende simbolico, l'inconscio è interpretabile, ma c'è una parte dell'inconscio che va al di là, che si presenta come non leggibile, non interpretabile, è qualcosa che cede sempre. Lacan dice: il reale ha esistenza soltanto quando incontra l'arresto del simbolico e dell'immaginario, cioè non ha un'esistenza verificabile, lo si verifica perché c'è un arresto. Lacan dirà anche, Lacan ha delle espressioni magnifiche, estremamente suggestive e che riportano proprio alla materia viva, dice: dove c'è dell'inconscio? Dove c'è qualcosa che zoppica, qualcosa che non va bene, qualcosa che si arresta. La questione dell'irrappresentabilità dell'inconscio è anche di un grande allievo di Melanie Klein, che dà luogo a una sottoscuola, insomma, diciamo così, che è Wilfred Bion, analista inglese anche lui, sebbene nato in India. E dice: l'inconscio è il frutto di una strutturazione che avviene ad opera di una capacità organizzativa interna che chiama funzione alfa. La funzione alfa è la capacità di organizzare qualche cosa che proviene dall'esterno e che non è leggibile attraverso un sistema, una griglia, uno schema di lettura che lo rende leggibile. Tutti quanti, voi avrete fatto l'esperienza, anche se non ve la ricordate, ma chi ha figli o fratelli più piccoli se la ricorderà, delle mamme che, non so, il bambino tocca questa cosa e la mamma gli dice l'orologio, il telefono, e il bambino spesso e volentieri indica qualche cosa. Cioè, questo lavoro di traduzione che la madre fa di elementi inspiegabili da parte del bambino è la funzione alfa, se volete è proprio il passaggio dal reale al simbolico, cioè il passaggio dal non conoscibile, da quello Bion li chiama elementi beta, cioè elementi scissi e disorganizzati che irrompono nella mente del bambino o del malato e che in qualche modo devono essere spiegati. E qui, cioè, voi per rendervi conto di importanza di questo, potete pensare all'angoscia. L'angoscia è differente dalla paura. La paura è il temere qualche cosa, un oggetto specifico. C'è un leone che è libero, temo di essere attaccato dal leone, ho paura del leone. L'angoscia è Bino dice il terrore senza nome, cioè è l'avere paura di qualche cosa che, di cui non si conosce, non si sa cos'è il cosa. La terribile psicoterapia di oggi parla, questo non è da sentire parlare tutti, di attacchi di panico. E allora ci sono gli specialisti degli attacchi di panico, come ci sono gli specialisti degli attacchi di calli e gli specialisti degli attacchi di gola. Il panico è un'angoscia, cioè credo che in forma più o meno blanda tutti quanti abbiamo provato un piccolo attacco d'angoscia. L'angoscia è il sentirsi oppressi da qualche cosa che non si sa, quindi da qualche cosa che non può essere tradotto in un che di leggibile. Pensate un po' alle vicende, non quelle odierne, della Lega o dei vari movimenti xenofobi, nazisti attuali, non dell'epoca del nazismo, cioè quanto facciano leva su questo. Cioè, se leggete un po' di libri sulla propaganda nazista o direttamente libri nazisti del tempo sulla propaganda contro gli ebrei, cioè l'ebreo che viene disegnato con le caratteristiche dell'ebreo, eccetera, però è il male, ma il male che non ha un'ulteriore definizione. Il male è qualche cosa che incombe su di me, mi può distruggere, ma che non è nemmeno definibile. Un paziente i giorni scorsi ce la sa. Fermare questa cosa qui è come mettersi a fermare uno tsunami con le mani. Allora non posso fermare uno tsunami con le mani. Lo tsunami è qualche cosa che travolge, rompe tutto, distrugge e che non è arrestabile. Cioè non è comprensibile, cioè l'attacco d'angoscia è la non comprensione di qualche cosa. Problema oggi abbastanza diffuso. Cosa che cambia ancora, ne accennavo prima, con il 20, è che lo statuto del male non è più, appunto, per dirla in modo medievale, un defectum boni, non è più una mancanza del bene, ma l'odio, scrive Freud, precede l'amore, cioè l'amore che si sviluppa dall'odio e non viceversa. L'odio diventa quindi il sentimento, l'odio che è una manifestazione dell'angoscia, è il sentimento che contrassegna la paura di ciò che appare esterno, diverso, difforme e così via. Ieri un paziente mi raccontava questa cosa. Vive con una ragazza, tutto sommato mi sembra che non vada neanche male. Dice: ieri abbiamo litigato perché volevamo fare un'insalata e lei diceva di metterci certi componenti. Io mi sono dimenticato, al momento mi sono ricordato, cioè ho messo altre componenti, ha messo il tonno invece del salmone, non so, i capperi invece che l'oliva, no? Questo genere. Dice: lei mi ha accusato che io non l'ascolto mai e non l'ascolto mai in ogni modo. A un certo punto mi ha aggredito a calci e pugni e ho dovuto tenerla proprio. Cioè è evidente che uno non è così scemo da aggredire a calci e pugni un altro perché ha messo appunto le olive invece del tonno. È evidente che questa ragazza, che però non è mica una mia paziente, ma cioè alcune cose sono solari, no? Se questa ragazza ha questa reazione così furibonda, direi pantoclastica, perché con comparse le olive, piuttosto con altra roba, cioè vuol dire che c'è dall'altro. Cioè, allora vuol dire che in quel momento il suo fidanzato le appare come l'immagine di qualche cosa che ha una potenza così straordinaria che non è arginabile e quindi la reazione all'angoscia diventa una reazione di una violenza spaventosa. Torno a farvi pensare ai meccanismi e ai localismi leghisti e non solo leghisti. Qui molti sono giovani e certamente non se lo ricordano, ma se ci fosse qualche cinefilo forse ricorderebbe un film che io cito spesso, che mi era piaciuto tantissimo, che era Cane di paglia. Qualcuno l'ha visto? Sì. Le persone che hanno qualche annetto di più. E voi. Cane di paglia, questa meravigliosa storia di un professorino di matematica americano che va a fare una vacanza, mi pare in Galles, con la giovane e bellissima moglie. I villani del paese, nel senso proprio di coloro che sono della villa, i villani del paese un po' lo prendono in giro, un po' lo scherzano, un po' fanno il filo pesante peraltro alla moglie, eccetera. Gli fanno degli scherzi anche pesanti e, se non ricordo male, sono passati tanti anni, a un certo punto tentano di violentare la moglie, insomma, che peraltro si faceva anche violentare non troppo malvolentieri, mi sembra di ricordare. Vabbè. A un certo punto questi decidono, assalgono la casa di lui per violentare la moglie, per prenderlo in giro, per sfregio e scherno. E in questo mite, piccolo mite, l'interprete era Dustin Hoffman, questo piccolo mite professorino americano, con gli occhiali, eccetera, un professorino, immaginate tutti quanti, si scatena una violenza tale che li ammazza tutti, ma in una maniera granghignolesca, cioè gli spara nei piedi, la violenza che esce da questo piccolo uomo mite è una violenza devastante, cioè decisamente superiore alla violenza di cui lui era fatto oggetto. E quindi la paura di quello che è esterno provoca l'angoscia, la reazione all'angoscia può essere di una violenza spaventosa. Avevo premesso prima che le formulazioni sia di Bion da una parte e di Lacan dall'altro sulla natura dell'inconscio e sulla sua struttura rendono impropria la riduzione della psicoanalisi ai soli confini terapeutici, e provo a elencare una serie di ragioni. Se gli aspetti aggressivi e distruttivi sono connaturati allo sviluppo del soggetto, non possono essere soppressi, ma devono essere integrati nella struttura del soggetto in modo possibilmente armonico. Cioè l'aggressività, in altri termini, non va vista come qualche cosa che in sé è negativa. La mitezza o la timidezza non va vista come qualche cosa che in sé è positiva. L'altro ieri era il giovedì di Pasqua e sarà accaduto anche voi di vedere, tanto lo fanno tutti gli anni, come nella funzione, che non so come si chiami, pasquale, c'è il vescovo, l'arcivescovo di Milano, che lava i piedi. Cioè, tanti anni fa una mia insegnante, appunto allieva di Concetto Marchesi, faceva notare che Fra Cristoforo poteva servire a tavola, poteva comandare di servire a tavola, ma non poteva sedersi a tavola con mi pare Renzo e Lucia. Lavare i piedi agli altri, la posizione di potenza, denuncia un'aggressività e un disprezzo spaventosi. La guarigione, dicevo, l'attività clinica della psicoanalisi continua tutt'oggi. Alcuni di noi che sono qui in questo momento cambiamo di questo, però cambia totalmente il concetto di guarigione. Guarito non è colui che nella terminologia nell'ideologia medica viene restituito all'integrità, viene rimesso al suo posto in maniera che funzioni come prima. La fine di un'analisi coincide con la capacità del paziente di sopportare in modo più realistico il male di vivere, per dirla alla Pavese. Cioè, fare un'analisi non vuol dire tornare come prima, vuol dire modificarsi ed evolvere, vuol dire cambiare. Inutile dire che questo suscita in coloro che vorrebbero fare un'analisi spesso e volentieri delle angosce. Se entro in analisi che faccio l'impiegato della SNAM, non è che esco che faccio il giocoliere nei circhi o l'astronauta o il protettore di prostitute, cioè il timore che il cambiamento sia un cambiamento non governato. E la propria storia, così come si potrebbe dire anche forse per la storia, diventa un mito personale. Uso l'espressione appunto di Fornari, perché e in questo senso l'analisi è il trionfo della possibilità di cambiare il così funiciano. Heidegger ha scritto pagine meravigliose. Cioè l'analisi è veramente la possibilità di riscrivere la propria storia. Riscrivere la propria storia vuol dire in qualche modo cambiarla. Non è che vengono cambiati i fatti, ma mi tornava in mente poi in seminari fatti all'Istituto di Storia dell'Età Contemporanea a Sesto, anche con Aldo, cioè i fatti non dicono niente in sé, i fatti, uno accumula i fatti. Cioè fare storia è di necessità mettere insieme dei fatti in una logica che tenti di spiegare in qualche modo. Poi si può un punto presentare, vedi Dino Risi nel film di ieri sera, presentato con grande enfasi da Rai Storia, uno può pensare al 68 e agli anni 70 come uno scontro generazionale, così può presentare anche il 1848 come uno scontro generazionale. La questione è dare un significato ai fatti. Quando uno viene in analisi e dice mio padre è un disgraziato perché cosa, mia mamma figurarsi, eccetera, non è che esce pensando in genere che il papà era un santo e la mamma una santa, esce pensando che suo papà e sua mamma erano quelli lì, insomma, e che per dirla in quasi milanese è inutile prendersela più di tanto, insomma. Ecco, si può cercare di ovviare al fatto che quella situazione abbia prodotto certi risultati. Ancora sulla questione della guarigione, non c'è più restitutio ad integrum, ma c'è un ripensamento di se stessi che apre alla società e alla possibilità di entrare nella, di vivendo il proprio, la propria società e la storia che si sta vivendo. Io direi che la costituzione dell'individuo con le sue formazioni di compromesso, questo è un termine freudiano del 38, quindi con un impasto pulsionale che porta a certi equilibri piuttosto che a certi altri, la costituzione di un individuo di questo tipo diviene un elemento determinante nella descrizione di un quadro sociale e storico. Io direi la stessa maniera in cui sono determinanti le guerre, le carestie, le formazioni sociali, eccetera. Facciamo un esempio così banale. Da tanti anni, chiacchierando, un analista l'ha anche detto per televisione, non l'hanno mai più invitato da nessuna parte naturalmente, che Berlusconi era uno psicotico. E non mi ricordo chi l'ha detto, mi viene in mente. Mancia, Mauro Mancia. Sì. Mauro Mancia da Gallerle disse è uno psicotico, non venne mai più invitato da nessuna parte, cioè secondo voi il fatto che Berlusconi avesse una certa costituzione psichica è un tratto indifferente rispetto alla storia di questi ultimi 20 anni? Beh, sì, ma rispetto alla Fininvest, ai capitali della mafia, eccetera, io non credo sia tanto indifferente. Io credo che uno studio delle caratteristiche personali di Berlusconi abbia un'importanza da un punto di vista della descrizione di questi anni non meno pesante delle avventure della Fininvest, della società offshore e cose di questo genere. Esempi di questo tipo ce ne sono stati. Un analista americano che è Alice Miller ha scritto dei lavori molto importanti sull'infanzia di Hitler. Se qualcuno di voi l'avrà letto, certamente l'avrà letto meglio di me, nella notissima biografia di Hitler di Joachim Fest, e se voi leggete tutte le parti che mi sono premurato di leggere subito sull'infanzia, l'adolescenza e la giovinezza di Hitler, sono agghiaccianti, cioè una persona fortissimamente disturbata. Dice, beh, ma se non era disturbata, cioè non ci sarebbe stato il nazismo, non credo. Il fatto che una persona così disturbata gli dà potentemente una mano, cioè diventa assolutamente coassiale con la società che esprime. Ecco, queste sono una serie di ragioni. Ecco, provo da. Cioè, senti, io sono andato un po'. Avete delle cose da chiedere, eccetera, perché avrei ancora delle cose da dire, ma adesso però non volevo andare avanti. Più dite meglio è, più chiedete. Facile mica tanto. Facile mica tanto. Beh, comunque sì, forse più intuitivo, individuale. Tenga presente questo, che è sempre facile individuare, a un certo punto Melanie Klein dice, è molto più semplice individuare una patologia mentale in un adulto che in un bambino, perché il bambino fa delle cose un po' da bambino. Allora, cioè, una personalità come Hitler, o lasciamo stare Hitler, prendiamo Berlusconi, no? Cioè, è assolutamente mimetica rispetto allo sfondo sociale, non è così facile individuarne gli aspetti patologici. Diventa facile individuare gli aspetti patologici quando questi si staccano molto dalla patologia generale della società. No, non è tanto facile. Cioè, di cui volevo arrivare. Quanto invece può essere utile interpretare i processi di rimozione delle masse? Cioè, può funzionare questo metodo di lettura degli avvenimenti storici attraverso la psicanalisi anche per i comportamenti delle masse? Ha ragione, era la cosa che mi volevo di trattare adesso. Freud qui ha scritto un almeno 3-4 lavori di straordinari. Uno è Il disagio della civiltà, sicuramente. L'altro è Psicologia delle masse, analisi dell'io, Totem e tabù, e L'avvenire di un'illusione, che parla della religione. Io credo di sì. Io credo di sì, francamente. Non per fare una psicoanalisi spicciola, ma perché noi ci siamo, e qui anche io personalmente, scrivendo un libro già qualche anno fa, occupato di questa questione. Nelle ultime pagine proprio del disagio della civiltà, Freud parla di quelle che lui chiama, e cito il termine tedesco perché poi chiarisco alcune cose, chiama Gemeinschaftsneurosen, la Gemeinschaft è la società, intesa come noi diciamo la società italiana, la società capitalistica, quella che la società come la intende Gramsci, ecco, per intenderci. E lui dice, ci sono delle nevrosi, delle Gemeinschaftsneurosen. Dice, certo che non sono mica facilmente definibili, perché sono sintoniche con quelle, cioè i tizi che sono ammalati di questi tipi di nevrosi, sono sintonici con la loro società. Allora, recentemente abbiamo pubblicato un libro sul denaro, e uno che dice che arricchirsi, insomma, qui l'unico modo di cavarsela è diventare ricchi e diventare, insomma, far tanti soldi, eccetera, e non è che si discosta da una società in cui motto di Wall Street, greed is good, l'avidità è buona, e faccio individuarlo se si discosta. Riportavo il termine tedesco Gemeinschaftsneurosen perché qui la traduzione italiana mi sembra discutibile, perché dice nevrosi collettive. Una nevrosi collettiva sembra una nevrosi che hanno tutti, più o meno come un'epidemia influenzale, è arrivata l'influenza, tutti hanno preso l'influenza, tutti hanno quella nevrosi lì. Gemeinschaftsneurose, tradotto letteralmente, io non è che conosco benissimo il tedesco, un po', sì, ma, ho provato a parlare con amici un po' più esperti di me. Gemeinschaftsneurose vuol dire nevrosi della comunità, non vuol dire collettivo. Cioè, se io dico che tanti hanno il cancro, è una cosa. Se io dico che in questa società il cancro è una manifestazione della patologia sociale diffusa, dico una cosa molto diversa. Che no, l'una non c'entra niente con l'altra. Mi riferisco al cancro, giusto perché ho letto ogni tanto, quando pubblico, leggo sempre volentieri le cose di Franco Voltaggio, e lui proprio in un lavoro sul cancro mostrava come la patologia cancerogena sia multifattoriale, con molti di questi fattori che sono specifici della società contemporanea, che non sono gli unici, che incidono, eccetera. Una cosa è dire questo, così è una Gemeinschaft malattia, una Gemeinschaft Krankheit, ecco. Se io dico che tanti hanno il cancro è una cosa completamente diversa. Allora, è possibile? Io sostenuto da Freud, che mi sembra quello più importante, penso di sì, penso come lui che non sia facile, non sia facile per molti motivi. Altre domande? Difficilmente il fatto che non ci siano domande vuol dire che la gente ha capito tutto e ha seguito tutto. Molto più facilmente vuol dire che il relatore è stato eccessivo, confuso. Quindi se fate domande aiutate anche me. No, devi aspettare un po' di digestione. Tempo per la digestione. Allora propongo il dolce o aspetta? Prova col caffè. Caffè. No. Itemis est. Senti, prima io ti chiedevo ancora, ti chiedevo se ci sono degli sviluppi delle applicazioni della psicanalisi in Cina, in India. Tu mi dicevi, vabbè, c'è chi pensa che c'è un'espansione perché ci sono 8 persone in analisi a Pechino che appunto è un po' come... In analisi dalla moglie dell'ambasciatore tedesco. Capirai, insomma, no, che poi non sappiamo neanche se sono cinesi o se sono... dipendenti dell'ambasciata tedesca di prassi perché vivono a Pechino. Appunto. No, ho questa domanda per una ragione molto semplice, perché sarebbe interessante se ci fossero i dati confrontare quello che emerge dell'inconscio in contesti culturalmente molto diversi dai nostri, quindi con apparati simbolici diversi, con quelli nostri, anche perché questo ci permetterebbe di capire quello che è comune alla natura umana al di là, qual è il residuo rispetto a ogni modello di civiltà, il residuo comune agli uomini in quanto tali. E questa è la prima domanda che ti volevo fare: c'è possibilità di fare questo tipo di confronto per poter ricavare delle indicazioni? Perché il passo successivo, la domanda successiva è: sì, tutto sommato noi attraverso la decodificazione degli apparati simbolici riusciamo a capire come il noi influenza l'io, cioè come l'esterno influenza l'io. Il problema più complicato per uno storico è capire come gli io possono entrare in relazione fra di loro influenzando il noi. E allora proprio devo passare al dolce, perché era questo. No, pensaci bene, non è una questione di dolce, perché? No, dolce nel senso l'ultima portata, siccome hai detto occorre la digestione. Vabbè, allora la piega la parte. Sicuramente il problema penultimo sul rapporto tra psicanalisi e storia, c'è stato uno scontro negli anni Ottanta nel quale poi la comunità di storici ha deciso che la psicanalisi non gli serve. Perché? Perché, prendendo uno schema abbastanza diffuso, il discorso è stato: vabbè, ma in fondo la psicanalisi studia l'individuo, allo storico serve ed è il luogo comune più ricorrente, allo storico non serve quello che al massimo può servire al biografo, che gli storici guardano i biografi con una certa diffidenza, sono un po' quelli di confine rispetto ai letterati, quindi la biografia non è in genere amatissimo dagli storici, anche se molti storici scrivono le biografie. Quindi sai, la psicanalisi a un certo punto può servire perché motivazioni di un personaggio, però in termini sociali come faccio a usare la psicanalisi per spiegarmi per esempio certi atteggiamenti delle masse? Cioè, anche perché c'è una domanda direttamente correlata, ma la psicanalisi non intesa come disciplina ma intesa come inconscio dell'uomo, come sfera della, ha una sua storia, un suo divenire, cambia in base a cosa? Sì, tante cose, ma però basilari. Primo, la differenza tra i sistemi simbolici, e questa qui è una cosa importante, perché a parte che, allora, due citazioni da storia della psicoanalisi, uno è Lacan, che vede a un certo punto, non mi ricordo neanche in che lavoro, in quei seminari, pare che più tre ingegneri del Togo, mi sembra, e lui dice: questi qua hanno portato qua da me l'Edipo, ma perché erano del Togo tanto quanto lo sono io, perché erano così pieni della cultura francese che hanno portato qui l'Edipo come strutturato nella storia della cultura europea. Ma non c'entra niente con... Inviterei a leggere, l'uscita del libro è molto recente, qualche mese fa, Decolonizzare la follia di Frantz Fanon. Frantz Fanon è stato un grande psichiatra martinicano, ha studiato in Francia, buon conoscitore per il tempo in cui scrive, sugli anni 50, già di Lacan, e in questo Decolonizzare la follia, pubblicato qualche mese fa, sulle sue esperienze di psichiatra, nonché importantissimo personaggio della rivoluzione algerina, morto purtroppo giovane, che ha 41 anni, a 41 anni lo siamo morti. E lui dice, mostrando, qui è evidente che io applicando, e fa degli esempi di comunità di malati psichici eccetera nell'ospedale che dirigeva, applicando le stesse regole, gli stessi metodi che applichiamo in Francia otteniamo buonissimi risultati, qui i risultati sono zero. Fino a quando ha introdotto all'interno dei gruppi di discussione di questi malati psichiatrici e degli elementi di storia ideologica e culturale loro, con delle persone che raccontavano. Cioè, la cosa che Fanon nota è che non si può prendere la situazione, la costituzione mentale di un europeo del Novecento e applicarla tu cur dovunque. Perché è reticolo. Fanon lo fa in confronto a popolazioni colonizzate, sì, che quindi in qualche modo hanno avuto una cultura aggredita in qualche modo da quella europea. E però questa aggressione lascia dei resti. Domande sui cinesi, che insieme al Giappone e alla Turchia sono gli unici posti del mondo che non sono stati colonizzati dagli europei. Dove si immagina che il sostrato culturale sia stato un po' meno contaminato. Vado avanti. Esperienza qui non storica ma personale mia e dei miei colleghi in istituto, cioè un paio di volte abbiamo avuto a che fare con dei signori islamici, anzi tuttora anche qualche caso c'è. Io tanti anni fa ho fatto una perizia su un signore di cultura islamica, peraltro un medico, che è poi stato condannato come mandante dell'omicidio della moglie. E quando io l'ho visto, ho fatto due colloqui con lui, e chiaramente se io dovessi definirlo secondo le categorie, un paranoico. La cosa ha cominciato a vedere che sì, paranoico un po' certamente lo era, ma non così paranoico. Cioè, se fosse stato uno italiano, che ne so, inglese o coso, la diagnosi paranoia era. Vedendo altri casi con colleghi in supervisione, chiacchierando, in confronti, in realtà questi aspetti paranoidi fanno parte della cultura islamica, soprattutto maschile. Quindi interpretare in chiave classica un atteggiamento di controllo e dominio in termini puramente paranoici diventa più difficile, perché appunto c'è il problema del rilievo e dello sfondo, per citare il titolo del mio libro. Cioè, una nevrosi con dei tratti paranoici, non dico una franca psicosi paranoide, ma una nevrosi con dei tratti di paranoia è più visibile qui ed è meno visibile probabilmente al Cairo. Questo lo possiamo riscontrare. La questione qual è? Che non so quanto siano solerti gli storici, ma certamente gli psicanalisti sono pigri e alcuni anche abbastanza ignorantelli. Dubitavo. Perché su queste cose qui, al di là del raccogliere dei dati che sono al solito indicativi, sono negativi, però sarebbe importante riflettere su queste cose e vedere che cosa induce nell'attrezzatura psicoanalitica una riflessione di questo tipo. Perché? E vengo a un'altra questione che hai dato tu. La storia della psicanalisi è la storia della grande crisi borghese del Novecento. Anche le date coincidono. Con ciò, chi ha avuto l'ardire, anni 60 e 70, penso a Morpurgo, penso a Facchinelli, qui in Italia, con esiti diversi, ma penso anche a Reich in Germania negli anni 20, di portare la psicoanalisi nell'ambito della classe operaia. Morpurgo aprì nel 75, mi pare, il famoso consultorio popolare di Niguarda, e a Berlino nel primo dopoguerra aprirono l'Istituto Psicoanalitico di Berlino, apre gratuitamente per le persone che portano nevrosi di guerra, eccetera. Gli asili psicoanalitici, cioè indubbiamente si può fare un lavoro psicoanalitico con classi sociali diverse. Alcune questioni della psicoanalisi sono acquisizioni importantissime. La pulsione è metastorica, questo è sicuro. L'inconscio penso ha fatto di no, ma la pulsione è metastorica. La pulsione chiede il proprio soddisfacimento, punto e basta. E questa io credo che qui mi ricredo, perché a suo tempo, giovane Baldanzoso, insieme al mio amico Mario Cirlà, polemizzammo a lungo con Franco Fornari. Alcune cose aveva ragione lui. Cioè io credo che la pulsione sia metastorica, cambia il reticolo in cui viene organizzata, cioè è diversa la fame che ti spinge a un pezzo di carne cruda ancora calda dall'appetito di un ristorante del centro di Milano dove si mangia con argenteria. È il reticolo che cambia. Però qualche volta ti viene di aumentare il candeliere. Sì, questo è il fatto che gli altri non viene mai da usare posate d'argento. Però posso inserirmi un attimo su quello che dicevi per capire se ho capito. Tu dicevi la storia della psicanalisi è la storia della grande crisi borghese del Novecento, quindi volevo chiedere, uno, se potevi approfondire questo concetto, in due minuti. No, nel senso, no, è per capire se magari consigliamo di leggere un autore come Schnitzler. No, è la domanda che mi nasce però da questa affermazione è, ma quindi, tornando a quello che diceva Aldo per esempio sulla Cina, sulla Cina questo discorso non è possibile perché non sappiamo, o meglio, bisognerebbe capire, cioè se la storia della psicanalisi è legata alla crisi del borghese del Novecento, in Cina c'è una borghesia, è consapevole, cioè, faccio una domanda più precisa e più provocatoria. Scusa un attimo, insisto in questo. La pulsione va regolata. Allora, c'è una questione della pulsione e c'è una questione del reticolo che la regola. Allora, il reticolo che la regola certamente cambia. Io della Cina, francamente, non so nulla. Ho visto qualche film di quell'autore molto... Zhang Jingwu, mi sembra si chiama. Dove certamente... L'aspetto pulsionale è vedibilissimo. Cambia il reticolo, immagino. La prima volta che avrò un cinese in analisi ve la racconto meglio. Dimmi. Ti faccio un esempio che porta al discorso del se l'inconscio e la psiche umana hanno una storia o sono... Per esempio, anche io sono convinto... L'inconscio certamente sì. Però, ad esempio, l'isteria. È la stessa cosa l'isteria dell'Ottocento con quella del Novecento? O anche l'isteria della signora in analisi da Freud, la Vienna di Freud? Quando usiamo questo termine, è lo stesso termine che cambia una donna cinese a Shanghai dei nostri giorni? E in che cosa cambia? Qui è evidente che c'è il reticolo. Come tutti gli analisti, ho avuto in analisi molte isteriche e non del tempo di Freud. Torno a dire, cambia il reticolo. Per dirla, l'isterica deve nascondere il fatto che non ce l'ha a se stessa. Come diceva peraltro una mia collega, grande isterica, diceva: il sogno dell'isterica è pisciare in piedi. E come poi si declina il quadro isterico all'interno della Vienna del Novecento? Certo, cambia rispetto a, non so, l'Italia degli anni Ottanta o a Shanghai del 2010. Probabilmente a Shanghai del 2010. Certo. Il problema mio di storico è che devo capire in che modo cambia poterlo applicare alla dimensione sociale, per poter decifrare la dimensione sociale attraverso questa lente, capisci? Se devo fare una comparazione e per esempio devo capire come e perché si diffonde un movimento e quali sono le componenti psicoanalitiche della formazione del movimento, ho bisogno di capire attraverso quali strumenti misuro questo cambiamento. E certamente, ad esempio, nella storia del femminismo un atteggiamento di tipo isterico certamente c'entra tantissimo, è coassiale, ma in maniera positiva. Cioè, c'è da ricordare questo: in psicanalisi non c'è una cosa che è tutta male, una cosa che è tutta bene, dipende quant'è. Senza aggressività moriremmo, perché non riusciremo a mangiare. Con un'eccessiva aggressività, appunto, addenti il cameriere. Quindi è una questione di equilibrio. Ci sono dei tratti permanenti tra le isteriche charcottiane e quelle odierne? Alcuni sì. Certo che se vedessi uno oggi che sviene ogni due minuti e ha la cecità isterica della Belle Époque, ti viene da ridere, ce la mandi in farmacia, la fai curare. Ecco. Non è più così. Però qual è l'essenza dell'isteria? È il prendere il fallo come il grande significante, per dirla alla lacaniana, cioè per avere questa fantasia che il significante è quello che dà spiegazione al mondo, e l'isterica non ce l'ha. Perché non ce l'ha? Cioè, qui c'è una lettura, cioè, se facessimo, aprissimo, quest'anno ho fatto una lezione sul femminile in Freud. Il femminile in Freud è terrificante, terrificante. Cioè, Freud legge tutto, lo dice anche, legge le nevrosi femminili, o comunque lo sviluppo femminile, come contrasto allo sviluppo maschile. Quindi, siccome il maschio è fatto in una certa maniera, la femmina è quella che non ce l'ha, e su questo si costruisce la sessualità femminile. L'isterica ci crede, è così. L'isterica è assolutamente determinata dentro nel fatto che sia il fallo il grande significante. Poi lo può declinare in una maniera o nell'altra. Ecco, questa cosa però permane. Questo in fondo è l'aspetto pulsionale. Se non forse voglio chiedere una cosa. Avrei qualche dubbio, francamente, comunque per dirla un po' in maniera bioniana, ne avrei a sufficienza che fosse applicata bene qui. Dopo, se riusciamo anche le Trobriand, sono contento, ma mi sembrerebbe già un di più. Vengo alla questione che accennavo prima, no, che volevo accennare. Uno, la questione della psicoanalisi e masse. In Psicologia delle masse e analisi dell'io, Freud dice che il modo, cioè la massa va per identificazioni laterali, cioè ognuno si sente uguale a quell'altro. E in che maniera si sente uguale a quell'altro? Attraverso un'identificazione, lui dice, del terzo tipo. L'identificazione del terzo tipo è identificazione per un tratto che somiglia a. Da questo esempio magnifico, collegio femminile, una fanciulla del collegio riceve una lettera in cui il suo fidanzato la lascia, colpita terribilmente nel suo intimo, sviene, tutte le sue amiche svengono. Identificazione del terzo tipo. Cioè mi identifico con la mia amica lasciata dal fidanzato attraverso una cosa particolare che è la sofferenza, non attraverso il sintomo, per quanto tipo. La psicologia di massa è di questo tipo. Un esempio più banale, guardate gli stadi. Normalmente la gente, presa singolarmente, non fa quello che fa allo stadio, perché identificandosi con tutti gli altri si abbassa il controllo superegoico. Abbassato il controllo superegoico, se l'arbitro è cornuto per 100.000 persone. Ecco. Volevo però venire a qualcosa che mi sembra più qualificante, e torno a Bion. Bion è grande, con un passato anche di storico, oltre che di medico, formula l'ipotesi che nella società ci siano dei gruppi, perché la società nel suo insieme, grosso modo, insomma, sempre andando per grandi categorie, grandi tagli, funzioni bene, cioè come un gruppo di lavoro, lui dice, che persegue un certo obiettivo con fini e metodi razionali, deve confinare quelli che sono le parti psicotiche, che indica come assunti di base. Anche qui c'è un problema traduttivo. Assunto di base, la traduzione italiana non brutta, di basic assumption. Solo che basic assumption non vuol dire, se fosse la traduzione più letterale, sarebbe un'ideologia di base diffusa. Io le chiamo gruppo in assunto di base. Allora, va bene, la traduzione italiana. e individua tre tipi di gruppi: il gruppo di attacco e fuga, che è il gruppo che è specializzato nella gestione del tratto psicotico aggressivo. E qual è, lui dice, un gruppo specializzato? Queste cose le scrive prima della guerra, insomma, attorno alla Seconda Guerra Mondiale. No, prima no, però immediatamente lì. Dice, qual è un gruppo specializzato all'interno della struttura sociale nella gestione dell'assunto di base dell'aggressività? L'esercito. Ha la funzione di combattere, di aggredire il nemico e di controaggredire nel caso che il nemico aggredisca. Un altro assunto di base, lui dice, è l'assunto di base di dipendenza. E qual è l'istituzione che gestisce la parte psicotica della dipendenza? Cioè, la dipendenza cos'è? È l'attendersi che qualcuno metta le cose a posto. E lui dice la Chiesa. La Chiesa ha questa funzione rassicuratoria di far sì, di demandare la soluzione dei problemi gruppali a qualcuno, a un'entità che potrà e avrà la capacità di risolverli. Terzo assunto di base è l'assunto di base di accoppiamento. Cioè, nell'assunto di base di accoppiamento è la gestione della parte psicotica, per cui se avviene qualche cosa, una coniugazione di qualche cosa di positivo, i problemi della società saranno risolti, i compiti affrontati in maniera positiva e brillante. Cioè, qual è l'istituzione sociale che assolve alla funzione di contenimento della parte psicotica di questo tipo? Lui dice l'aristocrazia. Perché l'aristocrazia? Perché sarà il re, che il re, diceva Marx, ha un compito: fare un altro re. E allora, dalla nascita di un sovrano, dall'accoppiamento magnifico del re e della regina, nascerà un nuovo re che avrà il compito di affrontare e risolvere tutti i problemi del gruppo. Bion dice, qui cito un suo allieve biografo, i gruppi assunti base sono gruppi emozionali che insorgono in un momento dato, in forma automatica, involontaria ed inevitabile all'interno di un gruppo di lavoro. Cioè, sono gruppi che hanno la funzione di assolvere e di contenere, cioè di contenere le parti psicotiche della personalità, di gruppo, non individuale. Adesso, problemino per giovani storici. Provo qui a sottolineare quali sono le caratteristiche del gruppo in assunto di base di dipendenza. Ce ne sono una serie. 1. Il gruppo si struttura per perpetuare uno stato di dipendenza vorace dal seno, cioè bisogna che abbia delle cose per star bene. Un aspetto mentale predominante è quello del senso di colpa per aver ottenuto in passato più di quanto si sarebbe dovuto avere per proprio diritto. Si struttura l'assunto di base per cui è certo che oggi andiamo male, abbiamo avuto troppo in passato, senso di colpa. Il gruppo si struttura come dipendente per evitare il conflitto provocato dall'invidia rispetto al seno. E sto male perché ho avuto troppo prima, quindi bisogna che mi contenga. La struttura del gruppo consente di dipendenza consente di evitare fughe negli altri assunti di base. E è il leader solamente del gruppo che ha il compito di confliggere con gli altri gruppi per ottenere quello che il gruppo di dipendenza considera giusto. È il leader che deve soddisfare il gruppo e non il leader che verrà, è il leader presente. Il gruppo ha la sensazione di produrre poco perché il leader non può dedicare tutte le attenzioni al singolo. Hai ascoltato troppo quello là? Quindi non funzioni poi tanto bene perché dovevi ascoltare me. Se ascolti me, il gruppo Va bene. Conseguenza di questo, il singolo ha la sensazione che il gruppo funzioni solamente quando il leader si rivolge direttamente al singolo. Ascolto te, dimmi tu cosa serve, io traggo consiglio da te, non da lei, traggo da te. E allora tu dici che va bene, naturalmente lei dice che va male. Non esistono, sono inconsistenti le relazioni intragruppali tra i membri del gruppo, cioè il funzionamento gruppale a stella. Ognuno si rivolge solamente ad uno. Il gruppo crea difficoltà a chi vuole sostituire il leader. È quello che va bene. È quello che va bene. Non si può pensare che ci sia un'alternanza. Il gruppo non è molto interessato a capire razionalmente i problemi, ma è interessato a individuare uno stile del leader che consenta di mettere bene a fuoco quali sono le caratteristiche dell'oggetto desiderato. Cioè, se il leader si configura come qualcuno che mostra che ci vuole quella cosa lì, ecco, abbiamo bisogno di quella cosa lì. Quello che il gruppo ha bisogno è quella della cosa che il leader mostra essere la cosa che soddisfa. Il leader nel gruppo di dipendenza non è un messia, non è quello che deve risolvere i problemi in un futuro rigenerato, ma è più simile a un mago che deve risolvere i problemi per le sue capacità che ha solo lui e che gli altri e che non sono neanche tanto note, ma però ce le ha lui. Chi dissente è eretico. Nel gruppo di dipendenza non si può dissentire. Chi dissente è uno che è fuori dal corpo. Le opinioni personali devono essere soppresse. Cioè, valgono nel gruppo di dipendenza solo le opinioni del gruppo di dipendenza, condivise dal gruppo. Le limitazioni imposte al gruppo di dipendenza sono imposte dalla ragionevolezza. Cioè, il gruppo si impone delle limitazioni che sono solamente limitazioni ragionevoli. Tende infine a porre se stesso come oggetto ottimale da cui dipende. Domandina, di cosa stiamo parlando? Non avevo idea. Anch'io mi è venuta subito. Però vedi che si può applicare anche a qualcosa di diverso di quello che stiamo pensando dietro in questo momento. Sì, per carità, però quello che volevo mostrare è. Può applicare anche alla nostra esperienza nei partiti comunisti. Sì. No, questo che dici tu, che è vero, naturalmente io pensavo, cioè, sembra la fotografia dell'Italia di Monti questa, no? Per altri versi di Monti e di Rossi, specularmente. Sì, sì. Sì, poi cioè, è un gruppo che si sta dissociando. Assolutamente sì. Però il richiamo, cioè il leader che non è un leader che ha il compito di risolvere magicamente, che non può essere ostacolato, che non deve essere, non deve circolare un'altra ragione, ci sono sensi di colpa perché abbiamo voluto troppo prima, cioè sembra proprio la fotografia. Cioè, no, questo per dire, però No, d'accordo. Speculare. Ma d'accordo, esattamente. Questo per dire, e cioè venivo alla domanda che faceva lui prima, no? E anche precisamente tu. Cioè, gli studi di Bion sui gruppi aiutano molto ad avere una prospettiva psicoanalitica utile per individuare all'interno di certi gruppi, che possono essere gruppi politici, gruppi sociali, gruppi, lui parla di gruppi, le sue esperienze vengono da aver fatto i gruppi nell'ospedale militare di non mi ricordo dove, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Cioè, le caratteristiche dei gruppi in assunto di base, cioè che hanno la gestione degli aspetti psicotici, sono caratteristiche che sono utili per indagare quando un gruppo si struttura così. Ecco, quali sono i gruppi che si strutturano così? Beh, certamente per esempio la Chiesa, come dice lui, certamente certe organizzazioni dei furono partiti comunisti, certamente l'Italia montiana, certamente tutte le situazioni di emergenza. Ricordate di Carl Schmitt, chi è che ha il potere e chi decide l'emergenza? Certamente la Lega. Credo che qui Bion mostri bene come la psicoanalisi può essere utilizzata per gli studi dei gruppi sociali. Qui non si parla più di individuo. Quello che stai dicendo è interessante, potrebbe essere oggetto di un'esercitazione per capire, però non adesso naturalmente, come la creazione di un immaginario comune di questo genere, per cui il gruppo si identifica nel leader che deve, eccetera, eccetera, produca per esempio degli effetti relativamente all'assetto delle istituzioni. Io stavo riflettendo in questi giorni sul passaggio che stiamo avendo dalla seconda alla terza repubblica, in termini proprio di costituzione quantomeno materiale se non formale. Il ruolo del Presidente della Repubblica, come viene costruito, come Presidente del Consiglio di riserva, il ruolo, il rapporto con le istituzioni europee, il rapporto con la stabile emergenza, cioè l'emergenza come dato non più eccezionale ma come condizione naturale in cui vivi, per cui il Presidente della Repubblica diventa non più il garante della Costituzione ma l'anello di la catena di comando fra la BCE e la società italiana, quindi anche sistema elettorale che si sta progettando, eccetera, funzionale qui. Potrebbe essere interessante vedere come. Questo che stai dicendo, che io trovo giustissimo, è quel che dice Bion, no? Quando dice il gruppo non è molto interessato a capire razionalmente, qui le parole sono mie, ma il concetto, ma ad individuare uno stile del leader che consenta di mettere bene a fuoco le caratteristiche dell'oggetto rispetto al quale stabilire la dipendenza. E infatti Monti, funzionario della BCE. Monti funziona perché non funziona più il miracolista Berlusconi, che è stato quello prima, sia pure con aspetti un po' diversi, promettendo il miracolo del io e io. Berlusconi è il Messia, eh? Berlusconi non è il Messia. Questo invece è un'altra cosa, veste in Loden, sa parlare inglese, sobrio, alla dialettica dell'understatement, che diventa il rassicurante paradossalmente. Quindi finita l'era del bunga bunga, arriva l'era del leader credibile, perché è sottotono, perché sa comunicare civile, non fa le corna. Il leader in Loden, nel regime di understatement, funziona perché prevale nel gruppo un senso di colpa. Esatto, qui è scattata questa, è scattato. La crisi c'è perché abbiamo avuto troppo prima. Dobbiamo entrare nell'Orient e qui si è costruito un immaginario intorno a cui si raggruppa l'opinione pubblica preparandola a un esito istituzionale di questo tipo. Quindi perciò dicevo, potrebbe essere interessante un seminario per vedere magari comparativamente con altre situazioni come la creazione di questa identificazione del gruppo prepari poi svolte di tipo sicuro istituzionale. Ma non solo, contiene anche il gruppo di dipendenza, contiene forse più del gruppo di attacco e fuga, perché il gruppo di attacco e fuga è un gruppo in fondo nazionalistico. Il gruppo di dipendenza prepara proprio la fine della democrazia al suo interno, perché il dissenso non è tollerato. Chi dissente è un eretico. E perché è un eretico? Perché è stupido. E perché è stupido? Perché è contro la razionalità. E qual è quella razionalità? Quella che dice il leader. Ed è non tollerato ed è stupido perché è premoderno, perché è attaccato a una cosa superata, corporativa, mentre invece la modernità è i licenziamenti e la fine del posto fisso. La modernità è quello se che dice il leader. Se tu corporativo che sì, sì, invece difendi una cosa che non ha più ragione d'essere. Certo. Perché la modernità è quella che cioè la cosa da fare è quella che dice il leader. Ed è da fare perché è razionale. Perché è razionale? Perché la dice il leader. Perché la dice il leader? Beh, perché la è razionale. Leader, la dice il mondo. Perché il mondo attuale della globalizzazione non è più quello di ieri, e il leader interpreta il mondo, sta incaricandosi di adeguare il nostro gruppo al mondo, le spese del mondo, e si batte lui contro quelli appunto un po' arretrati come te, come me, eccetera, che pensano che ci voglia ancora il conflitto. Cioè lui è delegato, come dice Brion, la parte psicotico-aggressiva è delegata solo al leader, mentre gli altri possono vivere nella razionalità. No, potrebbe essere interessante la comparazione, per esempio, con quello che sta... Perché devi comprare 95 bombardieri F-35, cacciabombardieri? Perché è necessario... Potrebbero essere interessanti due comparazioni. Uno, Weimar, su cui c'è un'operazione, poi ne parlo un attimo, di manipolazione storica importante. E l'altro, invece, secondo me, il personaggio storico, che somiglia, il tipo di passaggio somiglia di più al nostro mondo, che è Salazar in Portogallo. Salazar, a differenza di tutti gli altri leader fascisti, non è né un capopopolo tanto, né un militare, è un professore di economia che viene chiamato in un momento di grave dissesto economico del Portogallo, provocato da una super truffa bancaria, da una specie di aristocrazia al quadrato di Boeta, che provoca il crollo della moneta, eccetera. A questo punto si chiama quello che deve mettere a posto le cose e che crea più o meno meccanismi di questo tipo e genera una costituzione o Stato nuovo, che, attenzione, è l'unico fascismo in cui si vota. Cioè, è una cosa, per certi versi, come dice Adriano, che ha dei punti di contatto. Potrebbe essere interessante vedere esempi che collimano, esempi invece che divergono, per esempio esempi falliti, eccetera. Sulla Germania di Weimar c'è molto, per esempio, la rilettura che noi facciamo, fanno soprattutto i tedeschi, per cui il nazismo è figlio dell'iperinflazione, che è una bestialità, lo sa tutti, perché l'iperinflazione del 23. A novembre del 23 si adotta la nuova moneta, il nuovo marco, fino al 27 i nazisti pigliano il 3-5% dei voti. Il boom di nazisti lo fanno quando? Quando arriva il governo Gröning, che sulla psicosi della crisi del 29, per cui si teme il ritorno dell'iperinflazione, applica una politica violentemente deflattiva che fa 6 milioni di disoccupati in meno di 12 mesi, e i nazisti arrivano al 32%. Certo. Quindi i nazisti non sono figli dell'iperinflazione, sono figli della politica deflattiva, della deflazione di Gröning. Provo a leggere in termini bioniani, appunto. La prevalenza di un assunto di base di dipendenza emargina, se non delegandoli al leader, gli aspetti aggressivi. Però anche emarginandoli cosa fa? Potenzialmente crea un altro gruppo in assunto di base di attacco e fuga che diventa sempre più forte, perché il dissenso non è tollerato. Cioè, allora, voglio dire, è disfunzionale. Allora, i Gröning, o speriamo di no, insomma, i Monti, possono creare, anzi, debbono creare un sottogruppo fortemente oppositivo, che però non nasce sulla base della razionalità del gruppo di lavoro, ma sulla base della gestione dell'assunto di base, che viene escluso dall'assunto di base di dipendenza. Questo è un po' più complicato, prometto. La cosa più molto interessante per il gruppo dipendente, perché è vero che c'è un senso di colpa oggi nella società, ma io mi chiedo, ma questo senso di colpa non è forse indotto anche dal martellamento comunicativo e propagandistico che viene esercitato sulle masse? Perché io, che ho partecipato a tutte le lotte sindacali degli ultimi anni 60 e degli anni 70, in cui furono ottenute, furono conquistate cose che adesso vengono cancellate, questo senso di colpa, voglio dire. E anche quelli che con me, insomma, in quel periodo hanno combattuto, hanno lottato. Quindi è evidente che il senso di colpa nasce soprattutto in coloro i quali quelle esperienze non le hanno avute, che considerano quindi quello che viene tolto come un regalo fatto, mentre è frutto di un conflitto sociale. È importante la tua notazione sui mezzi di comunicazione di massa, perché a un certo punto, come dice il primo gruppo di dipendenza, la voce dissonante non è tollerata, E i mezzi di comunicazione che cosa fanno? Propagandano l'ideologia del gruppo di dipendenza. Cioè facciamo questo, ma non perché Monti ha detto, sentito con le mie orecchie, che imprenditori e sindacati durante questa trattativa hanno difeso gli interessi dei loro, della loro gente, legittimamente, lui ha detto, legittimamente. E perché non si può accontentare sia gli imprenditori che i sindacati, come lui in fondo desidererebbe fare? Perché non è razionale. Quindi chi si appella ai valori sindacali è fuori dalla razionalità. L'essere fuori dalla razionalità, cioè l'essere fuori dal coro, provoca di per sé sentimenti di colpa. Leggevo ieri, riguardavo uno storico, un bel articolo di Alberto Burgio su questa storia del comunismo internazionale di Pons. E lui mostrava lì, io non l'ho letto il libro, però Burgio è uno che apprezzo molto, come ci fosse una lettura profondamente influenzata dall'ideologia corrente, quindi dal fatto che oggi si pensa così e non si può pensare diversamente. Poi ci sono cose, certo, che sul comunismo internazionale e su chi ha vissuto in paesi comunisti, e qui in sala c'è una persona che l'ha fatto, cioè le cose interessanti potrebbero essere dette, ma non in questa maniera qua. Cioè è la struttura del gruppo di dipendenza che fa sì che l'opinione non conformista, avrebbe detto Bion, non ha cittadinanza. E perché? Perché non è razionale. E questo è il c'è questo delirio della razionalità nel gruppo. Non è moderna. Sì, o non è moderna. Beh, questa è una visione, come diceva Marx, teologica, perché il più vicino a noi è sempre meglio, il moderno è sempre meglio di quello che l'ha preceduto. Questa è una visione teologica. Sì, tu pensa all'assurdo, quando io ricordo che feci tutta la campagna sul referendum sulla legge elettorale del 93, scontrandomi sistematicamente con i referendari che dicevano: tu sei il vecchio, sei il premoderno, cioè io cercavo di dirgli, ma imbecilli, il maggioritario è più vecchio del proporzionale, stava prima, quelli premoderni siete voi. Il discorso, il messaggio non bastava assolutamente, perché si scontrava non con un ragionamento ma con uno stato d'animo, che era quello. Mi dispiace dire una cosa, Alfredo, so che ti farò salivare lo stomaco dicendo, ma purtroppo la lezione è questa: in questo paese ci sono stati molti tentativi di colpo di Stato in genere falliti, ce ne sono stati solo due riusciti, quello del 18 aprile 1993 del referendum elettorale e quello del novembre scorso con la nomina di Monti, e tutti e due vengono da quel che residua del Partito Comunista Italiano, da Occhetto e dalla Cura d'Anna. Che è tristissimo notarlo. Sì, no, che è tristissimo notarlo, ma gli unici due colpi di Stato riusciti vengono, fra virgolette, da sinistra, e riescono perché vengono da sinistra. Però attenzione, la cosa divertente, se si può dire così, è questo: è interessante notare come questa dinamica può anche avere risultati diversi per chi promuove, perché il colpo di Stato del 1993 serviva andare al potere il PS con i suoi amici, e invece ha inventato Berlusconi. Il colpo di Stato attuale forse era pensato in funzione del PD e servirà a regalarci una nuova democrazia cristiana. Questo poi per dire come talvolta può non esserci il successo. No, ma mai. Cioè il gruppo in assunto di base è un gruppo che è destinato a contenere e a gestire gli aspetti psicotici della società, quindi non può mai produrre degli esiti positivi, perché non è un gruppo razionale, è un gruppo malato. No, può, deve, perché cioè, ecco, quello che si può dire forse in grosso modo della psicoanalisi di oggi è che tu hai il problema del rapportarti con l'esterno che è nemico, E a cosa serve la nevrosi e la psicosi? Lo dico in maniera simpatica, come diceva un mio professore all'università. Per il nevrotico, per lo psicotico 2 per 2 fa 5, per il nevrotico fa 4, ma gli dispiace tanto. Cioè, se l'esterno è eccessivamente minaccioso, cioè si strutturano delle difese che possono andare dalla difesa estrema, la psicosi che nega la realtà, a una difesa meno grave che quella della nevrosi che modifica la realtà, ma l'importante è che la realtà non può venire affrontata. Allora, il gruppo in assunto di base funziona esattamente per non affrontare la realtà, quindi non può mai avere dei risultati positivi. No, qui io dicevo non i positivi, risultati contro intuitivi rispetto a chi li promuove. Ma sono difensivi, è sempre così. È la difesa patologica produce sempre degli effetti paradossali, perché in realtà non è una difesa contro l'esterno, è una difesa contro l'interno. Sì, con la differenza che Salazar ha fatto quello che voleva fare, ottenuto il risultato che voleva ottenere. Occhetto e forse Napolitano per mettere in modo dei meccanismi. Qui mi freghi perché non conosco bene la storia del Portogallo. Ma... Portogallo, guarda, è un esempio, forse sarebbe interessante fare un seminario proprio di questo tipo, applicando questo percorso fra psicanalisi e diritto costituzionale, perché Portogallo è un esempio proprio solare di una, direi, pulizia di linee. Non c'è nemmeno troppo da stare a scorporare, sai. Fenomeni storici sono sempre gli intrecci delle cose, ma è pulita la costruzione. Ed è impressionante come questo te lo faccia un professore di economia, che quanto di più lontano si possa immaginare dal leader. Cioè il leader, uno immagina. Beh, guarda che anche Monti è un professore di economia. Cioè uno pensa che il leader carismatico sia Mosè che porta il popolo. Ma il leader carismatico è Berlusconi, che è un messia. Ecco. Il leader montiano, insomma, è il leader del gruppo di dipendenza, non del gruppo di attacco e fuga o del gruppo di accoppiamento. È quello che forse ti frega di più, è più difficile da capire come leader carismatico. E perché non lo è? Però c'ha gli stessi effetti che il gruppo di dipendenza. Sì, ma perché tutti si rivolgono a lui, ma non ha la capacità di mobilitare. Quando Berlusconi diceva tutti devono pagare meno tasse, tutti devono godere, donne, champagne a volontà, più pilo per tutti, per dirla in maniera elegante. Cioè è mobilitante. Invece Monti no, perché deve gestire il senso di colpa. Allora dobbiamo fare questo perché non si può fare altrimenti. Sarebbe bello. Schiavegen, dicono a Milano. È molto chiaro. Io tra l'altro prima ti dicevo c'era possibile organizzare qui nel nostro centro un dibattito intorno al tema politico e psicanalisi. Potremmo fare proprio sull'esempio del governo Monti e di esempi comparativi che subito nella sua risposta. No, possiamo tentare questa strada, certo, di applicare la lettura del governo Monti e di un paio di esperienze similari, una riuscita come quella portoghese, Weimar è un'ipotesi fallita, poi non è l'economista Bruning che va a potere, ma ci vanno gli altri. Secondo me, adesso questo è il pensiero mio, io credo che veramente nel gruppo di dipendenza per forza si strutturi progressivamente un sottogruppo che è destinato a gestire l'eresia, ma si propone come controgruppo, cioè si propone come gruppo di attacco e fuga. Sì, certo, ma si costituisce non come gruppo, cioè non viene fuori un gruppo, il gruppo razionale, il gruppo di lavoro, lo chiamiamo, è il gruppo che persegue razionalmente un obiettivo condiviso. Tu strutturi un altro sottogruppo patologico. Sì, che in questo caso è quello che ha preso la mano. Che in questo caso ha preso la mano, ma facilmente secondo me prende la mano, perché siccome sai, se fai una politica recessiva, tu alla fine stringi i cordoni, crede malcontento forte, e non solo del malcontento ma credi del disagio, poi in tutte le società, Stati Uniti per esempio, dove ci sono forti flussi migratori, cioè l'odio, cioè il gruppo in assunto di base attacco e fuga, si rivolge sempre contro gli ultimi arrivati, che diventano coloro che sono responsabili della cosa. Lo strutturi facilmente, perché cioè, il poter scaricare l'aggressività su un nemico individuabile è essenziale. Per un gruppo in base attacco e fuga è assolutamente essenziale. E non potendo tollerare dissenso un gruppo di dipendenza, deve confinare questi aspetti dentro un altro gruppo specializzato. Aggiungo un'altra cosa, avrete visto anche voi, ho letto un po' distrattamente questa proposta che mi sembra un po' di questo nuovo soggetto politico, Revelli eccetera. No, Revelli e compagnie. È l'ex gruppo più o meno di Girotondini con alcuni. Questo sembra un gruppo in assunto base di accoppiamento, cioè perché rimanda all'avvenire di qualche cosa, appunto, il bene comunismo, appunto, no? Qualche cosa che di per sé dovrebbe ricollocare la società e il funzionamento sociale nei suoi confini. C'è stato l'altro ieri un articolo molto duro di Rossana Rossanda sulla proposta di Revelli e soci. Ecco, io credo che, sto riflettendo adesso qui, se, io anch'io penso anch'io che per ragione Rossanda, però mi viene in mente qui che ragionando in termini psicanalitici, un gruppo in assunto di base di dipendenza, non tollerando il dissenso che, se non come eresia e come irrazionalità, poi crea dei sottogruppi che gestiscono gli altri assunti di base. Uno è attacco e fuga, la Lega, ma l'altro, questo qui mi sembra un assunto di base di accoppiamento. Vabbè, mi inserisco. Siccome è 1:15 e credo che ognuno. Allora, io prima di tutto grazie, perché grazie a voi. Io confermo quello che ha detto Aldo, che penso che noi dobbiamo sicuramente metabolizzare un po' delle cose che ci hai detto. In quest'ottica ti chiederei una bibliografia o dei materiali, se possibile. In particolare sull'ultima parte, comunque sul tema del gruppo assunto di base, tutta l'ultima parte su cui ci siamo soffermati, che era molto interessante, almeno credo, per noi è molto interessante, e su cui forse è emerso il legame più forte. Giriamo una cosa interessante, qui c'è un brillante analista in formazione, studioso eccetera, che è il dottor Perfetto, lui farà questa roba. Va benissimo, rilievo lo sfondo. E appunto lui farà questa roba, lui darà queste indicazioni. Questa, sì, questa sicuramente io ci darei comunque un appuntamento. Beh, dopo che noi abbiamo metabolizzato, in modo che insomma proseguiamo questo percorso. E posso fare un'ultimissima domanda, che se è troppo complessa mi mandi a quel paese e mi dici ne parliamo un'altra volta, che torna da uno dei punti di partenza da cui tu hai iniziato la tua relazione, e cioè Freud diceva: auspico che la psicoanalisi non si riduca solamente a una questione clinica, e no, che non lo sia, o che non lo sia. Spero che non sia una domanda provocatoria, però riflettevo. Il discorso, e lo faccio da uno che ne sa pochissimo, quindi magari mi esprimo in maniera propria. Le neuroscienze, o comunque un'analisi, un approccio clinico a determinate patologie, potrebbe essere un modo per confrontare il discorso che facevamo prima, l'isteria della cinese di Pechino del 2012 e l'isteria della milanese del 2012, sempre. Cioè, capire se attraverso uno studio clinico si può... Clinico cosa intendi? Non lo so, però come dire, scientifico, medico, fisico, cioè... magari, esatto, cioè, capire se... La serpe in seno, lui, No, la serpe in seno. Scambia lo scientifico col medico. Per questo ho fatto questa domanda cioè dicendo che non ne sapevo nulla e magari mi esprimo in maniera impropria. Biologico, nel senso, se ci sono se si possono fare degli, se, se ci potrebbero essere degli studi che possono paragonare a livello di dati biologici, a livello biologico, queste condizioni. Ma sì, ci però magari, ripeto, lo dico non sapendone nulla, quindi... No, c'è qualche cosa, peraltro io non mi occupo però tanto di questo per una ragione che poi dico subito. Ci sono dei lavori di neuropsichiatri, eccetera, che dicono, beh, insomma, rilevando queste cose, cioè l'intuizione di Freud, eccetera, era buona piuttosto che non buona. Il problema però è un altro, e mi ricordo che una sera ne avevamo già discusso, forse a casa di Aldo, cioè le neuroscienze si occupano del cerebro, la psicoanalisi si occupa del mentale. Allora, il cerebro è un organo fisico. Il mentale è una rappresentazione, cioè qualcuno giustamente ha indicato la differenza, come più, tra l'hardware e il software dei computer. Se manca la corrente, chiaro che non funziona il software, ma perché manca la corrente, voglio dire. Però sono due cose diverse. Allora, sono due spiegazioni di tipo diverso. Io personalmente ritengo che la ricerca all'interno del somatico, quindi del cerebrale, dei tipi di disturbo rappresentazionale, sia in fondo una vecchia storia della filosofia medica, voglio dire, che da un certo punto, qui Mario Vegetti ha scritto delle cose importantissime, e a un certo punto prende una via rispetto ad un'altra, che è la scienza medica dei segni, ipotetico-deduttiva, eccetera. E quindi sono vie scientifiche diverse. Ci sarebbe molto da dire qui, perché vabbè, anche sul procedimento della procedere della medicina c'è delle cose da dire, sul procedere della medicina odierna, cioè il fatto che oggi, per esempio, non esistano più i medici di un tempo. I medici di un tempo, intendo i medici di famiglia, l'emblema di questi era il medico condotto. Allora, a che cosa porta? Al fatto che, questa è una cosa che più o meno sperimentano tutti nella loro vita, che se uno ha un disturbo va dal medico, questo lo manda a fare da uno specialista che fa degli esami, eccetera, ma quello che manca in genere è qualcuno che si ponga il problema di mettere insieme le varie cose e fare un'ipotesi diagnostica e poi un'ipotesi terapeutica. Allora, qual è la funzione del medico? Quella di approfondire attraverso strumenti opportuni e indagini appropriate un certo tipo di male, o è qualcuno che cerca di formulare un'ipotesi sul male? E cioè, oggi chiaramente andiamo nella prima via, e la gente però non sa cosa fare con la seconda, perché la gente poi viene a casa, questo parlo per esperienza, voglio dire, avendo pazienti medici o persone che sono state malate, insomma, pacco di esami così, e poi nessuno che fa un'ipotesi. E la psicoanalisi, come, e qui torno a citare Lacan, è il caso in cui qualcuno fa un'ipotesi e non mette mai in discussione la propria parola, nel senso, o la mette sempre, nel senso che quell'altro, il paziente, può dire tutto quello che vuole, ma io mi assumo una responsabilità di fare un'ipotesi. Non mi nascondo dietro al fatto di non farla. Quindi porto qualche cosa su cui l'altro possa ragionare. Cioè, io credo che la medicina oggi non proceda così, e credo anche, questo è un pensiero mio, che l'idea in fondo che ogni cosa sia leggibile attraverso il soma lascia aperto il problema di Blanchot, cos'è che differenzia un cadavere da una carogna, uno. E due, c'è la questione, voglio dire, che dicevo prima, della Isaacs, cioè l'idea che la realtà possa essere contrapposta alla fantasy è un'idea, come diceva lui, premoderna. D'altra parte, che non so che l'ulcera sia determinata, o disturbi gastrointestinali o disturbi cardiocircolatori abbiano una fortissima componente psicologica, lo sanno tutti, ma non è che non siano malattie, sono buchi nello stomaco, arterie ostruite, eccetera, ci sono, e come, però quant'è l'influenza di una corretta e buona alimentazione rispetto alle malattie cardiocircolatorie? Certamente c'è, ma qual è l'influenza di uno stato perenne di angoscia? Io credo sia decisamente superiore. C'è una branca della medicina, diciamo così, che si occupa di questa questione, si chiama la medicina antroposofica. Sì, non lo so, francamente, ecco, torno all'inizio, fa un po' specie che nelle società di psicanalisi dell'IPA oggi la stragrande maggioranza siano medici. Con questo piacere, insomma, in un fascicolo pubblicato qualche anno fa sul rapporto tra psicoanalisi e neuroscienze, l'unico secondo me che faceva un sano discorso psicoanalitico era Felice Civati, Cimatti, Felice Cimatti, che è un filosofo, voglio dire, ecco, meglio dei psicanalisti facendo discorsi secondo me discutibili, però questo è un campo determinato. Grazie. Grazie a voi. Sì, Marina, se smettete un attimo di chiacchierare, siete tremendi. Ci vedo. Se ci scambiamo i cose anche con la società. Allora. No, primo, prendi tu la mail, poi me la passi. Che titolo ha il libro di cui ti hai scritto? Quello sulle nevrosi collettive? Sì, dove c'è un libro. Beh, più di uno, no, quello è il rilievo e lo sfondo. Rilievo e lo sfondo? Sì, che ormai non è più tanto facile da trovare. No. Che era edito Franco Angeli. Ormai è passato qualche anno, non mi ricordo. E l'altro, questo? Quale? L'ultimo che hai citato, no, il primo che hai citato. Adesso mi hai citato un altro titolo. Mio? Sì. Ah, quello sul denaro? Quello che hai detto prima, adesso mi non mi ricordo quello che ho detto. No, questo riguarda il seminario di oggi sicuramente. Sì. No, non mi ricordo cosa. Ho citato ma di sfuggita quello sul denaro. E il titolo? L'ideologia del denaro. L'ideologia del denaro. Questo è il titolo di Bruno Mondadori, questo è recente, di un anno fa. Va bene. Per fare questa roba invece qui. Sì, scambiamoci un sì. Po' mail, telefoni, eccetera, anche con Marina Ricci che è segretaria. Io sono Alfredo Novarini. Novarini come Novare. Do le mail? Sì. Alfnov, tutto attaccato. Alfnov. Chiocciola, libero.it. Va bene. Siccome appunto... sono un po' come scriva... Freud, ma però il telefono ce l'ho sempre. Dagli la tua mail se sì, anche no, la tua. Poi anche tramite no. Aldo. Allora la mia è Ad Voltolin, tutto se serve, sì, Adriano Ad Voltolin, sì, chiocciola sì. gmail.com. Marina, è la tua, signor segretario? Beh, ma basta che tu la passi. Sì. Marina Ricci, tutto attaccato? Sì. No, scusa. No, il mio nome è Marina Ricci, la mia è Maricci 04 tutto attaccato. Maricci04@alice.it. Ecco, adesso ne parlo un attimo con i compagni nostri qui del direttivo. Tieni presente almeno un paio di mesi comodi. Un paio di mesi, magari possiamo farla prima della fine dell'anno. Dell'anno solare o? No. Sì, l'anno solare, sì. Cioè, dopo le ferie. Dopo l'estate? Sì. Sì, sì. E come quando io parlavo prima anche di rapporto con la politica del canale, intendevo anche rispetto ad alcune tipologie, tipo il narcisismo, l'estremismo, da questo punto di vista diciamo individuale oltre che collettivo. Io sono il mio cavallo di battaglia, anche perché io prima c'ero sociologo, cioè vengo da sociologia, io ho una precedente laurea in economia, in sociologia, poi io ho fatto io ricordo sempre il libretto di Lenin sull'estremismo, ma le infantile del comunismo, sarebbe interessante, soprattutto alla luce della anche della situazione in cui versa oggi la cosiddetta termine ecologico, sinistra radicale, questi fenomeni estremisti, di tipo fazioso, cioè, sarebbe interessante. Ma guarda che io credo la psicoanalisi italiana è veramente un po' una felicità, perché non si chiama l'inglese. Adesso è appena morto, ma non si